si fa, Carbone, un nome, una garanzia. Assolutamente, ma noi non possiamo mai fare danni. Certo. Quante soddisfazioni mi dai? Ecco, se poi anche perdessi qualche chilo sarebbe bello. Qui, oltre ad una pacca sulla spalla, naturalmente speriamo anche di fornire indicazioni pratiche e concrete. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Se ti muore chissà come, prendi la corrente non come il salmone. Scivoli per un flacone di sapone, finché non ti si propone un sermone. Io sono un oro perché vivo nella casa, perché sono ancora vivo nella casa. E se parlo di sesso e violenza non... Quello degli infortuni e degli incidenti domestici è un fenomeno in crescita costante, lo dice l'ANIA, l'associazione che rappresenta tutte le compagnie di assicurazione. Incidenti ed infortuni in generale hanno riguardato negli ultimi 10 anni l'8,5% della popolazione adulta. Nello specifico, quelli di tipo domestico hanno colpito il 6,6% degli italiani, con le donne particolarmente esposte a questo rischio sono il 65%. Seguono gli incidenti sul lavoro, 750.000, nell'ultimo decennio l'1,4% della popolazione, e quelli stradali, 250.000 in 10 anni, con gli under 30 maschi fra i soggetti più coinvolti. Questo presupposto per arrivare a dirvi che oggi facciamo un focus sul lavoro domestico, i rischi che si corrono e quali sono le soluzioni assicurative per chi vuole proteggersi da questa eventualità. Attenzione, perché c'è la polizza per le casalinghe in Italia, uno strumento di tipo pubblico ma che non viene sottoscritta granché. 800 24 00 24, se questo tema vi interessa potete iniziare a prenotare i vostri interventi. Nella seconda parte di Cuore Denari cambiamo decisamente argomento, anche se ci rivolgiamo, no? Come con una particolare attenzione alle donne. Certo. L'8 maggio in tutto il mondo si celebra la giornata sul tumore ovarico, il tumore ginecologico meno conosciuto, più letale e più sottostimato dalle donne, nonostante sia il quinto tumore più comune nella popolazione femminile. Allora, la giornata ha proprio l'obiettivo di informare le donne a prenderne consapevolezza. Ci proviamo anche noi a Cuore Denari a partire dalle 11:45. Sappiamo che è un tema delicato, che fa paura, di cui non si vorrebbe sentire parlare, ma dobbiamo farlo perché la mancanza di informazione ci mette in pericolo. Quindi restate. E se avete dei dubbi, se volete intervenire, se avete una storia da raccontare, se ci volete aiutare a fare informazione e quindi a rompere quel disagio, quella paura che tutte noi abbiamo quando si parla di temi così delicati, così caldi, chiamateci 800 24 00 24. Voglio andare a casa. A casa dove? La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa. La casa dove? La casa dove posso stare in pace. È vero, anche la nostra casa, che ci può sembrare il luogo più sicuro e tranquillo, può nascondere rischi e pericoli. Immaginate solo quando cominciano a camminare i bambini piccoli, no? Come proteggiamo tutto, Nicoletta, chiudiamo con l'elastico tutti i cassetti. Io già vedo, insomma, rivedo casa di mia sorella. Per chi ci vive, ma anche per chi svolge i lavori domestici necessari per la sua gestione, naturalmente, chiaramente i pericoli si moltiplicano. Oggi parliamo proprio di lavoro domestico e delle soluzioni assicurative per chi vuole proteggersi dalle eventualità di infortuni. Il numero verde per intervenire sull'argomento lo conoscete bene, l'800 24 00 24. Partiamo da un dato di cronaca. L'INAIL proprio in questo periodo sta inviando 1 milione di lettere alle famiglie italiane, c'è anche un allegato bollettino postale, per sensibilizzarle sulla pericolosità del lavoro domestico e per invitare le persone a sottoscrivere la cosiddetta polizza per le casalinghe. Una polizza che è obbligatoria, ma che, come succede sempre in Italia per tutto ciò che è obbligatorio, praticamente non la fa quasi nessuno, un po' come quando si varano dei provvedimenti legislativi con qualche obbligo, poi non vengono previsti meccanismi sanzionatori per cui l'obbligo si vanifica. Voi ce l'avete, il premio non arriva neanche a 13 euro, ma quanto tutela? uno strumento di questo tipo? Quali alternative disponibili e quanto costano, garantendo che tipo di copertura? E quanto devono risarcire, quanto devono, in che misura devono farlo? E sapete bene appunto che le compagnie assicurative qualche volta sono anche un po' ritenute non tanto trasparenti nel come dire, offrire soluzioni alla collettività. Salutiamo Alessandro Bellaz, direttore amministrativo di Pramerica Life, buongiorno. Buongiorno a tutti. Benvenuto. Il nostro ospite di questa mattina, perché l'abbiamo chiamato? Perché questa è una società che è una compagnia di assicurazione particolarmente importante negli Stati Uniti, giusto dottor Bellaz? Magari un brand un po' meno conosciuto in Italia, ma che da gennaio è partita con appunto strumenti di copertura di questo tipo, per cui sta anche cercando di fare un po' di campagna di comunicazione sull'altra polizza, che è quella statale, per fare anche un po' di raffronto, no? Per mettere a disposizione degli strumenti di informazione alla collettività. Secondo stime del, dicevamo prima dell'ANIA, dottor Bellaz, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e secondo stime appunto di questo dell'ANIA, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro le persone soggette all'obbligo assicurativo in Italia sono circa 7 milioni, giusto? Ma gli assicurati quanti sono? Sono meno, quasi 1.600.000 quindi assicurati, meno di un quarto. Che cosa ci dicono questi dati? Ma come ha giustamente anticipato in premessa, è significativo la scarsa adesione alle coperture assicurative. Basti pensare che dal 2005 al 2012 il numero di aderenti a queste forme assicurative che tutelano le casalinghe dai rischi domestici sono calate, e mentre nel 2005, prima che iniziasse la crisi economica, il rapporto era una persona assicurata su tre, oggi siamo addirittura a una persona assicurata su quattro. A mio modesto parere non è soltanto un problema di copertura assicurativa, ma di mancanza di conoscenza degli strumenti assicurativi che sono disponibili sia sul mercato sia anche dal punto di vista della copertura di tipo pubblico per poter tutelare le persone a fronte di queste tipologie di rischi. Comunque, tornando alla nostra polizza per le casalinghe, perché vedo già che qualche ascoltatore ci sta scrivendo che l'ha sottoscritta e qualcuno anzi chiede proprio informazioni su che cosa deve fare a fronte di un infortunio che si è manifestato di recente in casa. Insomma, questa polizza costa, Nicoletta, senti, meno di 13 euro l'anno, 12,91 euro, ma è evasa da circa i tre quarti degli obbligati. Tra l'altro ci sono anche degli uomini fra gli obbligati, perché non è che siano solo donne, giusto dottor Bellaz? Esatto, anche se la percentuale non è proprio esatto, è un po' sbilanciata, un po', diciamo, sbilanciata, sì. Però allora, alla base dell'evasione c'è certamente la crisi economica, che però può essere sostenuta con difficoltà, visto che parliamo di 13 euro. C'è anche il fatto però che a questo premio basso corrisponde, e mi pare anche abbastanza naturale, un grado di copertura insufficiente. Se ne lamentano persino le associazioni dei consumatori. Allora, ci può spiegare, ci fa un breve vademecum di questa polizza, poi andremo alle alternative del mercato privato? Certo. Volentieri. Tanto per fare un quadro generale di quelli che sono gli eventi assicurati dalla copertura cosiddetta della polizza delle casalinghe, innanzitutto sono assicurati esclusivamente gli infortuni che avvengono a causa del lavoro prestato in ambiente domestico, cioè avvenuti nell'abitazione nella quale la famiglia abita regolarmente, comprese le eventuali pertinenze, quindi ci sono le soffitte, le cantine, i giardini, i balconi. E anche se la casa in affitto, peraltro, non è che non è vincolante la proprietà. Non è vincolante la proprietà, non è un elemento chiave per avere la copertura. È comunque considerata, al pari dell'abitazione in cui abita il nucleo, anche la casa in affitto, come diceva correttamente, in cui si trascorrono le vacanze. Quindi se uno ha una seconda casa nel quale trascorre regolarmente le vacanze, è compresa la copertura. Se uno sta lì, insomma, stravaccato a prendere il sole sul balcone, cade dalla sdraio, Nicoletta, potrebbe teoricamente, anche se non è esattamente un lavoro domestico quello, quindi l'assicurazione è un'attività. L'INAIL potrebbe avere qualcosa, no? Da ridire. Successivamente va valutato qual è l'ambito di applicazione del domestico in cui, certo, rientrano le attività che sono coperte, e per quanto riguarda questa parte si fa riferimento al normale svolgimento della vita domestica e quella che è la relazione con il nucleo familiare. Pertanto rientrano nella copertura assicurativa tutti gli infortuni avvenuti nell'attività connessa a intervento di piccola manutenzione, quindi ci sono, non so, i piccoli interventi di idraulica, i piccoli interventi di falegnameria, quelli di elettricità, che normalmente si fanno quel fai da te, certo, per risparmiare. Sempre qualche ho una domandina, lo so, perché ho visto, perché Nicoletta ha come dire un piccolo conflitto di interesse tra virgolette. volevo sapere se anche gli infortuni causati o avvenuti per la presenza in casa di animali domestici, dai pappagallini ai cagnoloni. Ecco, ecco. E mi soffermerei soprattutto su questa seconda tipologia di animale. Molto pelosi. Un po' invadenti, ecco, per affetto. Perché Nicoletta ha la Emma, che tra l'altro è anche femmina, per anche cui femmina, quindi, diciamo, l'assicurazione dovrà, esatto. Ed è molto domestica, nel senso che tutti i divani sono suoi. Ecco, siamo coperti? Sono coperti nell'ambito della polizza delle casalinghe, quindi anche gli infortuni avvenuti per la presenza in casa di animali domestici, quali cani, gatti, pappagallini, canarini, criceti, quant'altro, sono coperti. Non sono invece tutelati gli infortuni causati da animali non domestici, quindi questi, se quindi ha la tigre in casa, probabilmente, ecco, questa non pitone è da considerare infortunio. Allora, ad essere interessati alla sottoscrizione, io prima lo precisavo, anche se chiaramente le quote sono evidentemente sbilanciate, sono tutte le donne e gli uomini fra i 18 e i 65 anni che si occupano in via esclusiva della cura della casa e del nucleo familiare. Quindi chiaramente, quando parliamo di qualcuno che si occupa della casa, non parliamo del collaboratore familiare, parliamo di noi che abitiamo in quella casa e ci prendiamo cura della famiglia. Per cui se lo facciamo in via esclusiva mi pare un termine anche abbastanza interessante. Perché se siamo, per esempio, non so, in cassa integrazione banalmente per qualche mese, dottor Belaz, adesso questa domanda l'ho pensata... Perché non bisogna essere portatori di reddito, ecco, e quindi il termine giusto è proprio dedicarsi esclusivamente all'attività domestica, e la parola esclusivamente esclude a priori, certo, queste eventualità. Ci sono tanti messaggi, c'è anche una telefonata di un ascoltatore, in molti ci stanno effettivamente raccontando che stanno ricevendo in questo periodo in casa la lettera dell'INAIL. Peraltro ieri sono andata sul sito, c'è anche proprio tutto il vademecum di questa polizza, molto aggiornato appunto al 2015, per cui lo segnalo anche agli ascoltatori che non avessero ricevuto niente ma che fossero ugualmente intanto interessati a questa polizza. Poi vediamo anche le altre, dottor Belaz. Allora andiamo agli ascoltatori che sono maschi. Sì, ecco, vedi, stranamente, perché la percentuale dovrebbe essere il contrario. Ma la devono pagare loro, dottor Belaz, il punto è questo, e non è una sciocchezza quella che hai detto una cosa. Perché non si assicurano le casalinghe? Perché non sono portatrici di reddito, perché questa polizza gliela deve pagare qualcun altro, giustamente, dico io. Chi? Saulo, da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo chiedere una domanda. Mia moglie è assicurata con l'assicurazione delle casalinghe, no? Si è fatta male un dito, si è rotta una falange di un dito, quel tappeto in casa praticamente. Pronto soccorso e tutto, 30 giorni. Volevo sapere se c'è qualche integrazione, qualche domanda da fare, c'è qualche rimborso. Grazie Saulo. Certo, giustamente lui dice: io l'assicurazione gliel'ho fatta fare a mia moglie, qua l'infortunio è arrivato, adesso intanto come si apre una pratica per capire se è possibile che possa essere indennizzata questa signora? Scindiamo i due aspetti. Il primo è l'aspetto, diciamo, di carattere documentale, che evidentemente sono documenti che richiede l'INAIL per poter avviare il procedimento, come per qualunque altra assicurazione. Quindi le informazioni sono sicuramente reperibili presso il sito internet dell'INAIL oppure presso le sedi locali dell'INAIL. Secondo lei, con un infortunio di questo tipo, invece, che dignità? Ha toccato un elemento abbastanza delicato, in quanto la copertura delle casalinghe dell'INAIL prevede una franchigia, cioè un esonero dal pagamento della prestazione da parte dell'istituto, che è pari al 27%. Quindi se l'invalidità dell'infortunato è sotto questo tipo di soglia, non c'è prestazione erogata da, quindi avrebbe dovuto tranciarsi un piede la signora praticamente per avere un indennizzo, che peraltro poi potrebbe essere stato di quanto? Diventa difficile determinare, perché i criteri di invalidità derivanti da questo tipo di infortunio sono oggetto di valutazione medica, e di conseguenza è il medico che effettua la valutazione che determina la percentuale di invalidità, quindi potrebbero essere 5, 7, 10 punti di invalidità, ma comunque sotto la fatidica soglia del 27. Sentirei anche Mario dalla provincia di Lucca, che proprio in questi giorni, a cui proprio in questi giorni è stata recapitata la simpatica missiva. Mario, benvenuto. Buongiorno, voglio farvi fare due risate. Eccolo, ho siamo scoperto pronti. La nuova missione della mia vita, ovvero il casalingo. All'augusta età di 66 anni. Non si trova bene, Mario, ma mi scusi, cioè. No, c'è il fatto che io sono senza reddito oramai da 4 anni, e l'INAIL ha pensato bene di chiedermi l'assicurazione dei casalinghi, non le casalinghe, ma i casalinghi. Certo. Mi ha dato la nuova missione di casalingo. Mi scusi, Mario, quanti anni ha? 66. E questa assicurazione viene richiesta fino ai 65. Infatti, esattamente. Questo che viene fatto precisare. Non sa con la mano sinistra quello che dà con la mano destra. Ah, perché lei dice, insomma, mi è arrivata, ma io sono già fuori target, quindi non si capisce come facciano anche questa comunicazione. E mi hanno scoperto la nuova missione della mia vita. Vabbè, Mario, quindi niente, lei l'avrebbe pagata volentieri? No, io guardi, ho smesso di pagarla per mia moglie qualche tempo fa, che mia moglie è più vecchia di me, e davvero non sento la necessità di un ulteriore balzello. Ha detto anche qua un'altra parola magica, ne discutevamo proprio col dottor Bellaz a microfoni spenti, no? Un po' tutto lo strumento assicurativo viene percepito in Italia come balzello, dall'auto, dall'RC auto all'assicurazione che hai sul mutuo. Tutto un tema legato alla cultura assicurativa degli italiani, certamente ad un lavoro qualche volta un po' non totalmente soddisfacente che le compagnie di assicurazioni fanno nei confronti degli assicurati. Dottor Bellaz, c'è un po' di tutto. Voi che avete questo stampo esterofilo, insomma, ce lo può confermare? Sì, c'è un po' di tutto, soprattutto la qualità del servizio è quella che percepiscono le persone in prima battuta, perché l'assicurazione interviene nel momento del bisogno, quindi in un momento delicato dell'assicurato. In quel momento l'assicurazione deve essere capace di poter supportare una persona che ha subito un danno più o meno grave, non ha importanza l'entità, ma in quel momento ha bisogno che le coperture assicurative che ha acquistato diventino effettivamente operative, nei limiti ovviamente di quelle che sono evidentemente le. Adesso sulla vostra attività andremo nella seconda parte della trasmissione, dottor Bellaz, però mi chiedo, è un mercato molto sfidante il nostro, e per i motivi che lei ci ha appena raccontato, e perché appunto in questo campo ci si assicura poco, perché comunque si ritiene che le garanzie offerte dagli strumenti assicurativi non siano soddisfacenti, perché vi siete voluti avventurare nel campo dell'infortunistica domestica? So che siete partiti appunto da gennaio con questa novità. Perché la filosofia del gruppo Prudential, tramite la propria rete del Life Planner, che è quindi quella che assiste materialmente il cliente nell'analisi del bisogno e poi nel trovare la giusta soluzione assicurativa, è una filosofia del gruppo Prudential in senso generale nota in tutto il mondo. È vero che in Italia la compagnia ha una dimensione non a livello generale, proprio schiacciati dai grandi player, ma chi ha un po' di conoscenza riguardo a quelle che sono le compagnie assicurative presenti nel mondo sa che Prudential è una delle più grandi compagnie assicurative nel mondo, presente in tantissimi paesi, non oltre negli Stati Uniti, e la filosofia proprio di fondo è quella del Life Planner, che assiste il cliente nel trovare le giuste soluzioni assicurative, sia legate ai temi di protezione, diciamo, di fronte a eventi più letali, sia di fronte a protezioni di questo tipo. Ed è per questo motivo che siamo sbarcati in Italia all'inizio di quest'anno, cominciando ad offrire prodotti legati alla componente infortuni, ma non solo quello, ma anche accanto naturalmente ad un'adeguata consulenza sull'utilizzo pertinente, diciamo, dello strumento assicurativo, fortemente focalizzato sul tema della protezione. Allora, 800 24 00 24, è tempo di andare ai mercati, ma forse vuoi sentire ancora un ascoltatore? Ma dai, sì, mettiamo fieno in cascina, come si dice. Emanuela ci chiama da Roma. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, sono Emanuela da Roma. Volevo segnalarvi che mi sembra assurdo che all'età di 65 anni non si possa più essere assicurati. Poi significativo sentire le parole del vostro esperto che dice la filosofia del momento del bisogno è quella di un momento di bisogno di essere vicino all'assicurato. È un po' in contrasto con la realtà. È che probabilmente per assistere adeguatamente dal punto di vista assicurativo da un certo anno in avanti, diciamo che in precedenza forse va studiata una soluzione assicurativa di carattere diverso, che è pure un campo dove il vostro gruppo, dottor Belaz, è particolarmente specializzato. Sì, poi sicuramente... Anche se Emanuele ha ragione. Molte di queste delle esperienze personali ovviamente condizionano il giudizio delle persone nei confronti dell'operato delle compagnie di assicurazione, questo è abbastanza evidente. In particolare mi riferisco ad esempio alla polizza RC auto, che quasi tutti la vivono come una tassa e quindi hanno avuto nel bene o nel male un'esperienza in questo settore. Molto spesso si tende poi a generalizzare l'esperienza negativa portandolo anche in altri settori dove invece eccellono servizi di consulenza oppure anche di assistenza in presenza di determinati eventi. E in particolare io sono particolarmente affezionato al tema della protezione, perché è un tema particolarmente caro, che non riguarda soltanto tematiche di copertura e caso morte, ma proprio di tutela della persona. E sulla tutela della persona credo che almeno come gruppo Prudential possiamo dire che facciamo particolare attenzione a questo tipo di... E c'è moltissimo lavoro da fare in Italia. Io ho tantissimo lavoro da fare, perché adesso è tempo la finanza che bussa la porta. Andiamo... Cuore e denari. Involving Angelina Jolie, revealing the bold decision she says she made for her children nearly two. Coming in the New York Times, Angelina Jolie revealing overnight. La conoscenza è potere. Con queste parole Angelina Jolie il 24 marzo scorso ha comunicato al mondo la sua decisione di farsi asportare chirurgicamente ovaie e tube di Falloppio, perché portatrice di una mutazione ereditaria dei geni BRCA che le aumentava di oltre l'80% il rischio di contrarre un tumore ovarico. La notizia naturalmente ha fatto il giro del mondo. Molte donne sono venute a conoscenza di questo tipo di tumore, che ancora troppo spesso nell'immaginario collettivo viene confuso con quello dell'utero, e al tempo stesso la notizia ha acceso un ampio dibattito internazionale sul rischio genetico ereditario e sulle nuove tecniche di prevenzione e cura di questo carcinoma, che, voglio ricordarlo, è il più mortale dei tumori femminili, col 45% di sopravvivenza a 5 anni contro l'89% del tumore al seno. Anche di questo parleremo a partire dalle 11.45 insieme ai nostri esperti. Obiettivo? Aumentare, come anticipato, la consapevolezza nei confronti di questo tumore, per il quale al momento non esistono strumenti di prevenzione come il vaccino, come il pap test per il tumore della cervice uterina, così come non esistono test di screening precoce, pensate alla mammografia, no? Per il tumore al seno. La conoscenza quindi dei sintomi, anche se sono specifici e sfumati, e dei fattori di rischio, ce ne sono alcuni, è fondamentale per migliorare la diagnosi precoce e gli esiti per le pazienti. Parliamone, informiamoci. Per le vostre domande il nostro numero verde è già a disposizione, quindi fuori la voce 800 24 00 24. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina, non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. E lì ci si infortuna subito. Se entri in una casa dove non c'è il pavimento, ecco, tipo botola. Allora, ne stiamo parlando questa mattina di incidenti domestici, di come ci si può assicurare naturalmente per garantirci un certo margine di serenità quando questi episodi accadono. C'è la polizza per le casalinghe. In questi giorni c'è la campagna di informazione da parte dell'INAIL, che sta inviando 1 milione di lettere alle famiglie italiane per sensibilizzarle sulla pericolosità del lavoro domestico, e quale donne che ci ascoltano e che sono in casa lo sanno molto bene, e l'INAIL cerca appunto di invitare queste persone interessate a sottoscrivere la polizza, che è obbligatoria ma che praticamente non viene fatta da nessuno. Allora, per coprire un po' questa lacuna del mercato, ovviamente le società private si attrezzano. Noi stamattina ci stiamo facendo raccontare l'esperienza di Pramerica Life, con noi il direttore amministrativo Alessandro Belaz, che da qualche mese appunto si è lanciata questa società su questo mercato, evidentemente scoperto, con delle soluzioni assicurative. Allora, per chi ci accusa che stamattina stiamo facendo lo spottone, qua nessuno, non ci ha portato delle polizze gratis il dottor Belaz. Noi eravamo curiose di capire come una popolazione che ha bisogno di coperture adeguate possa fare e quanto deve tirar fuori in termini di quattrini, dottor Belaz. Ci faccia un po' una bella... Allora, io e Nicoletta siamo tutto fuorché proprio le casalinghe tipiche, no? Perché siamo due lavoratrici, anche se ci impegniamo molto in casa, Nicoletta soprattutto con il cane, prima scherzavamo, ma insomma una famiglia, eccetera. Ci faccio un preventivo sostenibile, perché poi la casalinga, non portando reddito, la polizza gliela deve pagare qualcun altro, questo qualcun altro, il marito, anche il figlio qualche volta. Quanto deve spendere? Ma intanto la metterò in contatto con un nostro life planner in maniera tale. Allora, dopo lei mi fa contestare dagli ascoltatori. No, scherzavo ovviamente. Sì, per quanto riguarda, diciamo, le tipologie di copertura che Pramerica Life offre alle propri clienti e anche a noi, quelli che sono i nuovi clienti, la copertura infortuni è ovviamente uno strumento importante che non è indirizzato soltanto alle casalinghe. È indirizzato a qualunque soggetto che voglia proteggersi dall'evento infortunio e che può portare a due eventi che sono di natura, diciamo, producono degli effetti economici. Il primo è la morte e il secondo è un'invalidità permanente. Parliamo dell'invalidità permanente perché mi torna molto semplice vedere quali sono gli strumenti assicurativi che Pramerica Life offre comparati ad esempio con il 27% cui si faceva riferimento. Esatto, lo strumento prima. Più simile a questo della polizza per le per la casalinga. Lo strumento più simile è appunto una polizza infortuni che copra morte e invalidità totale permanente con una franchigia che è o il 3 o il 5% a scelta del sottoscrittore. Questo significa che, come è stato evidenziato nella telefonata o nella mail dove c'era una frattura minimale, l'intervento dell'assicuratore c'è in questo caso. Quindi il livello di franchigia che vengono messi sui prodotti assicurativi venduti dalle compagnie di assicurazione sono di livello decisamente più inferiore. Ma il vostro premio non sarà neanche di 13 euro l'anno? Ovviamente il premio non sarà. Io quindi vi invito a non guardare soltanto il lato premio, ma di guardare anche l'ampiezza della copertura. Però per garantire questa franchigia così bassa, per esempio, ci faccio un esempio, proprio il più semplice possibile. Poi è chiaro che vanno considerati tanti aspetti, l'età della donna, come è composta questa casa, che nucleo familiare c'è. Le pregresse condizioni di salute, perché immagino che anche quelle vanno considerate. Assolutamente così, no. Perentorio. Perché? Sì, perentorio, perché si tratta di una copertura infortuni. Trattandosi di una copertura infortuni, non è un evento attinente alle condizioni di salute del soggetto, come non è pure evidente, dipende né dal sesso né dall'età. Quindi posso avere anche 80 anni? Ci sono dei limiti di assunzione oltre il quale l'assicurazione diventa troppo onerosa. Quindi ci esistono dei limiti di età di accesso. Tanto per fare un esempio molto banale e concreto, un contratto di assicurazione che prevede un massimale di 100.000 euro, così avete in termini di paragone, con Pramerica il costo annuo è di 161 euro. Questo significa, molto banalmente, meno di 50 centesimi al giorno. Questo tanto per capire, per non continuare a parlare magari della vostra società, che può sembrare per molti ascoltatori ce lo contestano, può essere comunque il premio medio, di riferimento, con le altre compagnie. Parlando con un dato di mercato, diciamo, in senso, avvolgendosi al mercato in senso più ampio, si può stare in un range tra i 150 e i 200 euro. Quindi comunque sono prezzi accettabili per avere una copertura che ha franchigie più basse rispetto a quelle offerte da Inel, ma la seconda cosa importante è non è legata all'attività professionale della casalinga, ma vale per l'evento infortunio. Certo. Ma se si presenta appunto dei vostri life planner, come li chiamate, una persona che ha appunto questa caratteristica, in luogo, al posto di questa polizza dell'INAIL, vuole attrezzarsi con uno strumento assicurativo diverso, però fa quello, fa la casalinga, si prende cura della propria famiglia, della quotidianità familiare e quant'altro. Come profilate questo cliente? È l'attività professionale che determina il rischio. Faccio un esempio molto banale: la casalinga non è un vigile del fuoco, quindi è evidente che il vigile del fuoco per sua natura fa un'attività utile sicuramente, ma ha un profilo di rischio leggermente diverso rispetto a una casalinga. Quindi il prezzo è funzione dell'attività professionale. Ci sono delle suddivisioni per categorie per attività professionali in cui vengono inseriti i singoli rischi. La casalinga è considerato un rischio assolutamente normale. Allora, 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi su questo argomento. Fra un po' lo cambiamo, ancora un minutino e mezzo di tempo per sentire Paolo da Macerata e poi per soddisfare anche la curiosità di un ascoltatore che ci ha scritto al 349 238 6666. Sono in tanti ad averci scritto, ma uno chiede, sarebbe veramente curioso sapere quante l'INAIL è riuscita a farne sottoscrivere, soprattutto in che misura rispetto al rapporto delle sottoscrizioni appunto nell'Iquida. Abbiamo dei dati molto interessanti che poi diamo. Intanto Paolo, buongiorno, ci chiama da Macerata e benvenuto. Buongiorno a lei. Io sono uno dei bastian contrario quando sento parlare di essere obbligato a fare qualcosa soprattutto dallo Stato. Sa per quale motivo? Perché ormai da molto tempo non credo più alle favole che ci raccontano i nostri politici. relativamente al discorso dell'assicurazione per le casalinghe, le glielo dico, guardi, proprio spassionatamente, perché sia io che mia moglie lavoriamo, quindi non siamo soggetti a questo obbligo. Però vede, il fatto è questo, cioè io mi chiedo, a parte il fatto che, come avete giustamente detto voi, con 13 euro annui penso che qualsiasi risarcimento sia ridicolo come cifra, ma poi il fatto che venga posta una franchigia del 27% di invalidità già da sola diciamo denuncia il fatto che molto probabilmente la maggior parte di chi si fa male in casa non verrà assolutamente trattato, diciamo, dall'INAIL con nessun risarcimento, proprio perché per ottenere il 27% di invalidità, certo, immagino che uno debba veramente, come dicevo prima lei, o tagliarsi un piede completamente o farsi ancora di peggio, e non so in che percentuale queste cose succedono nel nostro paese. Quindi diciamo che forse non è che noi italiani siamo così ritrosi a fare queste cose perché non vogliamo rispettare, sì, le, sì, leggi, c'è proprio una sfiducia generale, perché questi sono, diciamo, i soliti artifici che vengono fatti dal nostro Stato, che ormai non sa più quale barriere raschiare per portarci via altri soldi per mantenere uno dei tanti enti. E vabbè, almeno si accontenta di 13 euro, Paolo. Qua tante volte, come dire, anche le compagnie di assicurazione ci fanno un po' arrabbiare da questo punto di vista, ci fanno sottoscrivere l'assicurazione, poi quando si tratta di indennizzare e risarcire dobbiamo sempre negoziare. Dottor Bellaz lo sa bene perché ne parlavamo a microfoni spenti. Noi abbiamo terminato con lei, però questo dato vogliamo darlo velocemente: tra marzo 2001 e giugno 2012, quindi un raggio temporale di 11 anni, le richieste di rendita per infortunio sono state inoltrate all'INAIL 16.159, le rendite effettivamente erogate 912, quindi neanche 1.000, di cui 42 a superstiti, perché peraltro questo aspetto non l'abbiamo considerato, ma anche al superstite eventualmente viene riconosciuto, e questo insomma ci dà la misura effettivamente forse di un'assicurazione che dovrebbe cambiare qualche parametro, specialmente avendo funzioni sociali. Ecco, bravo per questa chiosa finale. Grazie ad Alessandro Bellaz, direttore amministrativo di Pramerica Life. Che si fa? Andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade, e poi torniamo subito dopo insieme per la seconda parte di Cuore Denari. A tra poco. Cuore e Denari. Se ci siete, se volete, se credete, come afferma Angelina Jolie, che la conoscenza è potere, restate, parlate con noi di un nemico che attenta la nostra salute, mette in pericolo la nostra vita e che, nonostante la sua aggressività e alta mortalità, confondiamo e sottovalutiamo. A fotografare questo vuoto di informazioni, i dati di una ricerca condotta da Doxa Pharma per conto di Acto Onlus. In linea con noi abbiamo il presidente Nicoletta Cerana. Buongiorno Nicoletta, bentornata. Buongiorno Nicoletta, grazie per questo invito in questa giornata così importante per noi, che è la giornata mondiale sul tumore ovarico. Ricordo che sulla pagina di Cuore Denari, nelle scorse settimane, avevamo fatto degli approfondimenti che potete andare a riascoltare, ma Nicoletta, lo conosciamo poco e male, ma a vedere i dati lui ci conosce molto bene. È il quinto tumore ginecologico più frequente nella popolazione femminile. Ci vuoi dare un po' il quadro della situazione? Sì, certamente. In termini di numeri, oggi in Italia ci sono circa 38.000 donne che combattono contro il tumore ovarico e ogni anno 6.000 donne ricevono una diagnosi di tumore ovarico, con una previsione di sopravvivenza soltanto del 45%, vuol dire che più della metà muoiono o non sopravvivono alla malattia. Anche perché spesso la tardi. Diagnosi arriva in ritardo, perché per questo tumore non esiste diagnosi precoce, non esistono strumenti di screening o strumenti di appunto diagnosi precoce come esistono per il tumore al seno, il tumore, certo, all'utero, e quindi spesso questo killer silente ci colpisce all'improvviso quando è tardi. Nonostante la sua aggressività e la sua alta mortalità, il tumore ovarico però è poco conosciuto, lo conoscono solo il 31% delle donne italiane, solo il 20% lo considera molto pericoloso, probabilmente poiché non lo conosco non lo considero pericoloso, è il pensiero che sta dietro, soltanto una donna su 5 ne conosce i sintomi e, cosa molto grave, la maggioranza non attribuisce sufficiente importanza alla diagnosi tempestiva. cioè all'inizio, che oggi è l'unica arma a disposizione per combattere la malattia con buone possibilità di guarigione. La possibilità è del 90% quando il tumore è preso all'inizio, contro il 25% di possibilità quando il tumore è diagnosticato in stadio avanzato. I dati parlano chiaro, ma Nicoletta Cerana, quali sono allora le iniziative di Acto Onlus per colmare questo vuoto informativo? Io ricordo che sul sito di Acto veramente potete avere tantissime informazioni, scaricare un opuscolo con le cose da sapere. Avete lanciato anche una campagna web in cui invitate le donne, ma non solo le donne, a scattarsi una foto e a dare la loro solidarietà alle tante donne che stanno combattendo una battaglia nei confronti di questo tumore. Sì, oggi giornata mondiale del tumore ovarico in 26 paesi, 78 associazioni pazienti stanno celebrando questa giornata, la celebriamo sul web, su cui è possibile postare messaggi, lasciare foto collegandosi al sito ovariancancerday.org. Noi le accettiamo sulla nostra pagina Facebook e poi per la prima volta da 3 anni che esiste la giornata noi celebriamo questa ricorrenza con 3 importanti convegni che si stanno svolgendo contemporaneamente qui a Milano, dove si parla di rischio genetico, a Roma, al Policlinico Gemelli, dove si parla di terapie personalizzate, dove oggi viene inaugurato il primo degli hospital dedicato solo al tumore ovarico, e a Napoli, dove si parla anche qui di tumore ovarico. E noi continuiamo a parlarne, Nicoletta, perché come lanciava lo slogan di una vostra campagna, il silenzio non è d'oro. E quindi io ti ringrazio per essere stata con noi. Ricordiamo anche il sito di Acto, vi daremo anche tra poco altre indicazioni, 800 24 00 24 per saperne di più. Intanto continuate a scriverci, 349 238 6666, nell'attesa vogliamo presentarvi l'ospite che ci accompagnerà in questa puntata. È già in linea con noi il dottor Claudio Zamagni, direttore scientifico di Loto Onlus e direttore dell'oncologia medica d'area al Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Dottore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Noi donne sappiamo poco di questo tumore, molti di noi lo confondono ancora con quello dell'utero. Non sorprende che, nonostante Angelina Jolie, a molte donne sfugga che la predisposizione genetica è uno dei principali fattori di rischio. Ma, dottor Zamagni, andiamo per ordine. Intanto vorrei salutare un'ascoltatrice che ci chiama e che ci ha chiamato subito, appena abbiamo lanciato il tema. È stata la prima ascoltatrice di Cuore Denari e salutiamo, e vorrei farla subito partire dalla sua considerazione per dare poi dei messaggi di informazione alle donne che ci stanno ascoltando. Maria Rosa, buongiorno da Milano, benvenuta. Buongiorno. Allora, io vorrei dire brevemente, dando delle date, la mia storia. Io a marzo 2014 ho fatto un'ecografia per altri motivi e vi assicuro non c'era nulla. A giugno l'ho rifatta, anche se mi era stato consigliato di rifarla dopo 6 mesi, l'ho rifatta perché mi andava di rifarla, avevo una ciste di 8 cm, una ciste ovarica di 8 cm, dove mi hanno garantito che non c'era nulla che poteva sospettare, perché è ben delineata, con tutti i parametri per una cosa positiva, da tenere controllata dopo 6 mesi. A fine luglio sono andata, e primi di agosto, sono andata 2 volte al pronto soccorso, ma questo era per dei dolori che avevo, e la paura che era dei medici era che si potesse torcere questa ciste che stava ingrossando ed era già arrivata a giugno a 12 centimetri, cioè ad agosto già di 12 centimetri. Facendo i MARC, che sono la ricerca delle cellule tumorali, erano tutte negative, perciò era semplicemente una questione di una ciste molto grossa. Finché non sono andata a fare un'ecografia di secondo livello al San Gerardo di Monza, che ringrazierò a vita, dove mi hanno messo in lista d'attesa per un intervento ai primi di ottobre, cosa che invece mi guarda, mi avevano detto 8 mesi, un anno, perché non c'era nulla di urgente. Sì. Lì per la prima volta mi hanno dato un campanello d'allarme dicendo no, qui tutti i parametri sono negativi, ma finché non abbiamo la biopsia non possiamo garantire al 100%. Tant'è vero che sotto intervento biopsia tumore maligno, primo stadio di secondo livello. Quindi è stata, Maria Rosa, lei è stata operata? operata ai primi di ottobre. Certo. Mi hanno fatto fare una chemio per 6 mesi perché naturalmente hanno fatto 30 e passa prelievi e non c'era nulla in circolo, per quello i marchi erano tutti negativi. Adesso io a febbraio ho finito il ciclo di sì. chemio, però mi hanno proposto di inserirmi in una ricerca di diagnosi familiare. Allora Maria Rosa, il dottor Zamagni, che conosce bene queste situazioni, l'ha ascoltato il suo racconto. Adesso dottor Zamagni, commenteremo proprio il caso di Maria Rosa, ma daremo naturalmente alle donne all'ascolto tutte le informazioni oggi disponibili per combattere questo tipo di tumore. Dottor Zamagni, noi ci sentiamo subito dopo il GR, resti con noi e intanto 800 24 00 24. Grazie a Maria Rosa per averci raccontato la sua esperienza. Cuore e denari. Ma se afferri un'idea che ti apre una via e la tieni con te. Siamo tornati in linea, ritorniamo ad occuparci del tema del giorno, parliamo di tumore ovarico. In linea con noi abbiamo il dottor Claudio Zamagni. Dottore, sì. Abbiamo sentito la storia di Maria Rosa, ci ha raccontato una storia che è caratterizzata da traversie multiple, direi. Insomma, ci racconta che questo tipo di tumore è difficile da intercettare, da individuare. Partiamo da qui. Sì, la storia della signora è una storia tipica di questo tipo di neoplasia, cioè un tumore che negli stadi iniziali non dà sintomi, molto raramente dà qualche sintomo, quando li dà in fase iniziale sono sintomi poco specifici e quindi difficilmente riconducibili a questa patologia, e spesso nelle fasi iniziali la diagnosi è proprio dovuta a un riscontro occasionale ecografico, quello che è successo alla signora. Da quello che la signora ci ha raccontato si capisce. Oh mannaggia, adesso lo ripeschiamo al volo. Sì. Nel frattempo possiamo leggere i tanti messaggi che arrivano, perché chiaramente abbiamo già attivato l'attenzione delle donne che vogliono sapere come si individua. Allora, e soprattutto ecco. Molte di voi ci stanno scrivendo che hanno casi in famiglia di mamme o di sorelle con ammalate e decedute per un tumore dell'ovaio, ma ci chiedono anche se ci sono delle relazioni con altri tipi di tumore, il tumore del seno, il tumore dell'utero. Ne parliamo tra poco con il dottor Zamagni, che vi ricordo è il direttore scientifico di Loto Onlus, che è un'altra associazione proprio pensata per dare sostegno alle donne malate di tumore ovarico, lavora molto bene sul territorio. Ma il dottor Zamagni è anche direttore dell'oncologia medica ad Dari al Policlinico Santo Orsola di Bologna. Lo stiamo cercando di recuperare. L'abbiamo recuperato? Non ancora. Intanto andiamo a sentire Maria, che ci chiama da Torino. Buongiorno Maria. Ah, buongiorno. Senta, io ho 64 anni e anch'io, come la signora, ho fatto una visita, non l'avevo mai fatta, un'ecografia pelvica, e per cui mi hanno evidenziato delle piccole cisti di millimetri 20x15. E sono anni, sono 4 anni che ce l'ho sempre così fisse i marchi tumorali. Li tiene sotto controllo, ecco. Però cosa devo fare? Dottor Zamagni, l'abbiamo ribeccata in linea, dottore. Eccolo. Buongiorno. Non so che punto ero quando è caduta la linea, stavo commentando il caso della signora che l'ha chiamato prima. Poi le facciamo commentare anche Maria. Allora, lei è caduto nel momento in cui ci ha detto che in effetti questo è un tipo di tumore molto particolare, i sintomi sono specifici, è un po' difficile da intercettare. Esattamente, e anche i quadri ecografici in realtà sono spesso di interpretazione complessa, quindi anche la attendibilità della sola ecografia transvaginale spesso non è tale da consentire diagnosi tempestive. Ed è la ragione per cui non esistono programmi di screening basati su questo esame. Quindi la storia della signora Maria Grazia, che abbiamo sentito prima, è una storia tipica. Si arriva alla diagnosi di tumore dell'ovaio fondamentalmente in due modi: o per riscontro occasionale di lesioni ovariche. In corso di un'ecografia fatta sembrava di capire senza per ragioni altri motivi, specifiche, sì. O comunque per altre ragioni, oppure se arriva la diagnosi quando i sintomi diventano evidenti, l'addome si distende, si gonfia, iniziano importanti difficoltà con l'alimentazione, ma spesso in quelle situazioni lì la malattia è già in stadio avanzato, è già uscita dalla pelvi, ha invaso l'addome ed è in uno stadio terzo o addirittura quarto, che comportano purtroppo delle possibilità di guarigione molto inferiori rispetto a quando la malattia viene diagnosticata in stadi iniziali. Abbiamo anche il caso di Maria da Torino. Maria, sono state individuate delle ciste ovariche che tiene sotto controllo anche monitorando i marker tumorali. Maria voleva un parere del dottor Zamagni, ma è questa la telefonata di Maria, ci permette anche di raccontare che quando parliamo di ovaie non possiamo parlare e pensare solamente che siano sede di una neoplasia. Ci possono essere altre formazioni che non necessariamente sono maligne, dottor Zamagni. Assolutamente sì, la maggior parte anzi delle lesioni ovariche non sono maligne, la maggior parte delle cisti ovariche sono cisti benigni e cisti funzionali e quindi è corretto il monitoraggio di queste cisti. Ovviamente non possiamo entrare nello specifico del caso della signora perché bisogna avere elementi che, certo, che non possiamo avere qui. Tuttavia va ricordato come messaggio importante che la maggior parte delle lesioni ovariche, delle ciste ovariche sono benigni. Esistono in realtà delle caratteristiche di queste cisti che l'ecografista esperto, si parlava prima di ecografia di secondo livello, ecografia di secondo livello vuol dire l'ecografista che è dedicato a questo tipo particolare di ecografia, l'ecografia pelvica transvaginale, e che all'interno delle lesioni dell'ovaio sa riconoscere quelle caratteristiche che si associano a un rischio assente molto basso, basso o via via più alto di essere rappresentative di una lesione tumorale. Quindi l'ecografista esperto sa capire quando occorre fare accertamenti ulteriori rispetto alla sola ecografia per arrivare fino poi alla diagnosi, all'asportazione, alla biopsia, alla diagnosi istologica. Dottor Zamagni, il tumore si verifica quando le cellule dell'ovaio impazziscono, per così dire, crescono e si dividono in modo incontrollato, ma ancora voi non conoscete le cause che determinano questo processo, o sbaglio? Guardi, non le conoscete tutte? Esattamente, non sono conosciute tutte le cause. Va detto questo, che sappiamo che possono esistere dei fattori endocrini, ormonali, ad esempio la iperovulazione può essere uno dei fattori favorenti lo sviluppo di neoplasie ovariche, possono esistere dei fattori ambientali e sappiamo esistere dei fattori genetici. Eccola qui, volevo arrivare proprio qua, alla predisposizione genetica. Dall'indagine che Actonlus ha fatto risulta che le donne non hanno l'idea, non considerano questo come uno dei fattori di rischio. La ricerca invece si sta concentrando sulla predisposizione genetica, che è tornata un po' alla ribalta con il caso di Angelina Jolie. Ma quando noi diciamo predisposizione genetica, immediatamente associamo all'idea di ereditarietà e familiarità. Insomma, queste tre parole, dottor Zamagni, spesso noi le usiamo legate tra di loro, forse non conoscendo esattamente il significato. Le chiedo di aiutarci quindi a rispondere alle tante ascoltatrici che ci scrivono. Se in famiglia ci sono casi di tumore dell'ovaio, come nel caso di Angelina Jolie, che aveva una storia familiare, qual è l'indicazione della comunità scientifica? E il riferimento va solo fatto per il tumore dell'ovaio oppure ci sono altri tipi di tumore, no? Penso al tumore al seno, penso anche a quello del colon. Come dobbiamo comportarci? Come possiamo, no, traghettare queste informazioni che ci arrivano dai giornali, dai media, in una, tra virgolette, stile di vita preventivo? Guardi, il tema è molto attuale, evidentemente, e anche molto complesso, perché le conoscenze nel campo della genetica stanno evolvendo in maniera molto rapida. Oggi che cosa possiamo concretamente fare per intercettare quelle donne, quelle famiglie e quelle donne dove può esistere una predisposizione genetica? Innanzitutto dobbiamo ricordare che per quello che ne sappiamo oggi, la maggior parte dei tumori dell'ovaio sono tumori sporadici, cioè non legati a una particolare alterazione genetica, ma almeno il 10%, probabilmente anche più di questa percentuale, sono invece legati alla mutazione di alcuni geni. E alcuni di questi sono stati individuati, in modo particolare i meglio conosciuti sono i geni BRCA1 e BRCA2, proprio quei geni di cui si è parlato tanto a proposito di Angelina Jolie. Bene, che cosa bisogna fare dal punto di vista pratico? Io posso dirvi che cosa stiamo facendo qui nella regione Emilia-Romagna, dove da 2 anni è stato attivato un programma di monitoraggio delle donne a rischio eredo familiare. Che cosa significa questo? Significa che la donna che ha una certa caratteristica di familiarità, quindi ha casi di tumore in famiglia, soprattutto casi di tumore della mammella, di tumore dell'ovaio e anche casi di tumore dell'endometrio, il caso ancora più particolare quello del colon che ricordava lei prima, il medico di medicina generale o i centri screening dove le donne vanno a fare la mammografia compilano una scheda anamnestica che riporta queste informazioni. Dalla compilazione di questa scheda emerge un punteggio, se questo punteggio supera una certa soglia, la donna viene indirizzata in alcuni centri della regione dove la storia familiare viene approfondita e se da questo approfondimento, fatto con particolari modelli statistici che sono disponibili nella letteratura scientifica, se da questo approfondimento emerge una probabilità medio-alta che quella donna possa avere una mutazione, allora la donna viene avviata alla consulenza genetica e al test. Il test vuol dire un prelievo di sangue sul quale poi, con una procedura di laboratorio piuttosto complessa, si va a vedere se c'è la mutazione di questi geni BRCA1 o BRCA2. Quindi sembra che l'indicazione il messaggio non sia è molto quella. Chiaro. L'indicazione non è quella di fare il test a tappeto a tutta la popolazione, questo non avrebbe senso, ma di selezionare, filtrare, individuare quelle persone dove la probabilità che ci sia questa mutazione è significativa. Mm-hmm. Dottor Zamagni, vogliamo, dopo aver chiarito il capitolo della predisposizione genetica, provare a tratteggiare un profilo della donna a rischio? In genere questo tumore colpisce le donne intorno ai 50 anni d'età, nella prima menopausa? Sì. Ci sono dei fattori di rischio che possiamo aggiungere, ad esempio abbiamo detto che può esserci una familiarità, ma ci sono anche delle altre condizioni che possono aiutare le amiche che ci stanno ascoltando a capire, no? Quali sono i fattori di rischio di questo tumore così asintomatico, subdolo, così difficile da intercettare? Sì, guardi, i fattori di rischio sono piuttosto generici, se escludiamo quelli legati a storie familiari molto clamorose che evidentemente inducono il dubbio della predisposizione genetica. E è vero, il tumore dell'ovaio colpisce soprattutto, è possibile anche prima della età della menopausa, ma certamente la sua incidenza aumenta dopo i 50 anni. C'è una maggiore frequenza nelle nullipare, cioè nelle donne che non hanno avuto gravidanze, ma anche in quelle che hanno avuto la gravidanza dopo i 35 anni, insomma tutta una serie, c'è un qualche rapporto con l'obesità, con alcuni fattori ormonali. Anche con l'endometriosi? Guardi, con l'endometriosi il tema qui è molto complesso. L'endometriosi è una malattia estremamente diffusa, molto molto diffusa. Oggi sempre più viene diagnosticata a molte donne, vengono diagnosticate forme molto blande che una volta sfuggivano alla diagnosi. Il rischio di cancerizzazione della endometriosi esiste, ma è un rischio basso. Quindi le donne con endometriosi non devono avere il terrore di poter sviluppare delle neoplasie, bisogna sapere che è una possibilità che esiste, ma complessivamente il rischio è basso. dottor Zamagni, abbiamo le telefonate in attesa, 800 24 00 24, se non riusciamo a passarle, volevo raccogliere tutte le informazioni utili e poi ci scrivete e gireremo le vostre domande al dottor Zamagni. Dottore, ci sono però anche dei fattori protettivi, ad esempio la pillola anticoncezionale sembra proteggere. La pillola anticoncezionale sembra proteggere, anche se in realtà i dati sul ruolo della pillola anticoncezionale sono piuttosto controversi. Quindi il messaggio pratico è: la pillola anticoncezionale si può assumere senza preoccupazioni riguardo al possibile ruolo nei tumori ovarici. No, non è che vada assunta come fattore protettivo per il tumore dell'ovaio. Dottore, voi all'istituto oncologico presso cui lavora avete assegnato la Daria Award a Jacobs, presidente della facoltà di medicina e scienze umane dell'università di Manchester, perché questo medico ha condotto degli studi per individuare un metodo scientificamente rigoroso per una diagnosi precoce del tumore ovarico. L'abbiamo letto, un test, un esame del sangue ci aiuterà a predire in tempo il rischio di tumore. E a che punto siamo? Io vado sempre molto cauta con queste notizie che accendono delle speranze. Io so che almeno questo mi spiegate voi, che c'è bisogno di conferme dalla scienza, quindi quelle che possono sembrare delle novità vanno affrontate con un pochino di cautela. A che punto siamo? Ho letto in una sua intervista che ha detto siamo all'ultimo chilometro della maratona. È vero, lei ha ragione, è bene avere speranza, ma è fondamentale essere cauti nell'interpretazione di questi dati e di queste notizie, in questo senso. Il professor Jacobs da molti anni sta studiando metodi di diagnosi precoce dei tumori dell'ovaio, che per la ragione che abbiamo detto prima, qualora si rivelassero efficaci, sarebbero fondamentali per salvare la vita di molte donne colpite da questa malattia. Bene, gli studi, in particolare l'ultimo grande studio condotto su oltre 200.000 donne in Inghilterra, siamo al punto in cui si è già dimostrato come il dosaggio di un marcatore tumorale in uso da tanti anni, che è il CA125, ma interpretato non come alto o basso rispetto al valore normale, ma secondo un particolare algoritmo, abbinato eventualmente all'ecografia pelvica transvaginale, anche questa fatta secondo determinati criteri, potrebbe, è in grado di anticipare la diagnosi. Il punto a cui siamo è: questa anticipazione diagnostica ha poi un impatto, cioè è capace di ridurre la mortalità per tumore dell'ovaio? Questo ultimo passaggio ancora manca. Questi risultati dovrebbero, sono stati annunciati per fine 2015, e solo se questo grande studio dimostrerà che l'anticipazione diagnostica si traduce poi in una riduzione di mortalità, allora si potrà prendere in considerazione di applicare quella metodica a campagne di screening più o meno mirate a particolari sottopopolazioni di donne a rischio. Quindi Il messaggio ci è arrivato chiaro, di speranza ma di attenzione. Dottor Zamagni, ricordiamo anche il sito di Loto Onlus, di cui lei è direttore scientifico. Io ho proprio solo 20 secondi per salutarla, per ringraziarla, per dire alle donne che ci stanno ascoltando di andare a fare un giretto su Loto Onlus, che tra l'altro organizza anche tra le varie attività dei weekend nella natura, proprio per lezioni di yoga, lezioni di meditazione per le donne che affrontano questo grande problema di salute. Dottor Zamagni, noi le inoltreremo qualche domanda, ne stanno arrivando tante. La ringraziamo per la chiarezza e per la delicatezza con cui ci ha accompagnato. Grazie molte. Grazie a nome anche di Loto Onlus. Buona giornata. Buon weekend a tutti. Noi ci ritroviamo qua puntuali lunedì alle 11. A tutti un saluto da Deborah Rosciani, Nicoletta Carbone.